si è fatta tardi e meglio cala, vamma man. Ehi, c'è una iam, però che è struttima canzone, va cantam. Gira il bota, vulessama su una per tutto, anta. Ehi, si ma, bota gira, forse l'imma fatta troppa, bagaria. San pensando e o gato a favor. Canta pensando e o gato a favor. Hey! Chuta agora.